Siamo in collegamento telefonico con Marino Sinibaldi, che è uno dei curatori della nona edizione di Libri come Felicità, dal 15 al 18 marzo a Roma. Marino, ben ritrovato. Buonasera, buongiorno. Ben ritrovati a voi, grazie dell'invito e della possibilità di raccontare la festa del libro e della lettura. Qui leggo subito 300 scrittori e 130 incontri previsti. Sì, però i numeri non sono tutto, non vorrei dare un'immagine solo quantitativa, tanto più con voi. Naturalmente si tratta di tanti appuntamenti per la piacere di incontrare tanti autori, ma anche per dare modo di esprimere, diciamo, un po' tutta la complessità, la pluralità che c'è nella lettura. Questa festa nasce, come molte altre, per il piacere di condividere una passione, quella per il libro, ma anche con l'ambizione di rappresentarla per intero, no? Non c'è solo il fatto di incontrare il grande autore, ma c'è anche il fatto di scoprire l'autore giovane, non c'è solo l'incontro tradizionale, ma c'è anche il dialogo, la conferenza, la maratona, non c'è solo la letteratura, c'è anche molta società, naturalmente, e qualcosa che implica anche, se non proprio l'impegno, la responsabilità dei lettori. È per questa ragione che gli eventi sono tanti. Senti, vedo che sono anche coinvolte 10 biblioteche di Roma con altrettanti incontri con libri e autori. Giovedì sera ci sarà un'anteprima in queste 10 biblioteche romane, è un modo per, diciamo, distribuire, condividere, allargare, diffondere la festa in tutta la città. Sappiamo bene che città complessa, grande, anche problematica è Roma, è molto bello fare una festa in un luogo come l'auditorium che è dedicato alla grande musica, alla grande cultura e dunque anche alla letteratura. Però per noi è molto importante andare anche nelle biblioteche, nei quartieri, nei luoghi dove vive i cittadini di Roma e soprattutto i giovani di Roma, e mostrare anche lì dove loro vivono quanto possa essere prezioso un libro, quanto possa essere anche interessante una discussione, una presentazione letteraria. Marino, il tema di quest'anno ce lo presenti? Il tema di quest'anno sembrerebbe non aver bisogno di presentazioni, come si dice a volte, perché abbiamo scelto una parola molto impegnativa, felicità, anche che potrebbe sembrare semplice per certi punti di vista, perché parlare di felicità vuol dire parlare di lettura, di condividere appunto la felicità, di parlare di libri. Sappiamo che per il paradosso un po' del lettore, il lettore è felice o almeno trae piacere anche dalla lettura di cose tristi che nella vita invece lo addolorerebbero molto. Quindi c'è uno spazio, c'è un'allusione intanto a quello spazio di felicità che deve essere o dovrebbe essere la lettura. Poi c'è anche l'allusione in tempi come i nostri alla felicità difficile, cioè a quella che si deve confrontare con un mondo complesso, pieno di contraddizioni, pieno anche di violenze. Noi avremo degli eventi organizzati insieme a Amnesty International, a Save the Children, Action Aid, cioè associazioni che ci portano a contatto con i conflitti, anche quelli apparentemente più lontani. E poi c'è il tema di come sono fatte le nostre vite, le nostre società, c'è il tema appunto di come costruire felicità in tempi da tanti punti di vista, non solo quello, diciamo, economico, sociale, su cui ci si sofferma di più, davvero difficili. Quindi è una parola che nasce per invitare gli ospiti che verranno ad aiutarci a pensare su questo, anche da questo punto di vista, in modi diversi. Ci saranno vere e proprie lezioni di felicità, ci saranno invece presentazioni di libri in tema, ci saranno dialoghi sul tema, ci sarà anche una serata finale dedicata a una coppia di parole, Felicità e 68, di cui ricorre il cinquantenario, di cui proveremo a mostrare il collegamento, in modo senza essere enfatici, a dire che il 68 è stato, oltre a tante cose, anche un momento, un anno felice. Ci fai anche una breve panoramica, della strutturazione e dei luoghi di questa 4 giorni? Guardi, i luoghi sono diversi anche qui, perché usando gli spazi dell'auditorium noi vorremmo dare della lettura l'interpretazione più plurale più possibile, più inclusiva o comprensiva possibile. Quindi ci sono le grandi sale dove ci saranno i grandi scrittori, dove ci sarà Andrea Camilleri per fare un nome, ci saranno sale intermedie dove potrete conoscere scrittori che meritano attenzione. Questo è un aspetto che veramente chiedo la collaborazione anche vostra, di tutti quelli che hanno un ruolo, diciamo, di comunicazione e di mediazione, per dire che se riusciamo a far capire che è un festival, ci si va per incontrare i grandi autori, quelli che si è già letti, ma anche per scoprire quelli che non si conoscono ancora, affidandosi in qualche modo alla possibilità di farlo, e qui ci sarà Nicole Kraus, ci sarà Mattia Senard. Per me è difficile fare nomi perché sono tutti nomi scelti da me in qualche modo, tutti per me importanti, ma ecco, affidiamoci anche a questo aspetto dell'autore che pare meno conosciuto e lo diventerà, come è accaduto per altri autori di questa festa. Poi ci sono eventi che fa davvero piacere di uscire, a cui fa piacere, davvero piacere di riuscire a dedicare uno spazio. C'è da qualche mese un progetto, ahimè, dedicato alla memoria di Alessandro Leogrande, perché insieme a lui è stato partorito alla fine dell'anno scorso, poco prima appunto della sua scomparsa a dicembre, che si chiama La Frontiera. Ed è un progetto, anzi l'abbiamo chiamato La Frontiera in onore di un libro di Alessandro, un progetto che con lui e un altro piccolo gruppo di persone e di associazioni avevamo messo a punto per tentare di offrire narrazioni diverse sul tema della migrazione, dell'emigrazione. E ci sarà a Roma appunto uno di questi eventi, ce ne sono stati alla radio, a Radio 3, ci sarà al Salone Libro di Torino, ci sarà in altre occasioni uno spazio nel quale dei pensatori, Simonetta Agnello Orbi, Gabriella Turnaturi, a Roma, per esempio, risponderanno a delle domande sul tema delle migrazioni che non sono quelle consuete, non sono quelle solite, non sono quelle che hanno costruito due narrazioni incompatibili e una delle due vistosamente trionfante, insomma, nel nostro paese. Ecco, questo per esempio è un momento diverso di un festival, è diverso dalla consueta discussione o presentazione di un libro, ma per me nella lettura e nei libri c'è anche, oltre a piacere, questa dimensione di responsabilità. Per quanto riguarda le informazioni online, immagino il sito internet dell'auditorium e pagine Facebook. Molto attivo e tutti gli spazi, i consueti, i biglietti sono, alcuni eventi sono a titolo di ingresso gratuito, altri costano tutti 3 euro, quindi compresa la festa finale che ci sarà domenica sera e che sarà un momento anche musicale veramente particolare, lo riveleremo via via agli ospiti, ma sarà davvero una serata affascinante, appassionante, in cui si parlerà del 68, quindi dei suoi temi, delle sue contraddizioni, ma anche della sua musica, dei suoi film. E sarà una serata, credo, molto interessante, oltre che, spero, divertente, coinvolgente. Tutti gli appuntamenti costano 3 euro, quelli a pagamento, gli altri, molti altri sono completamente gratuiti, quindi penso non ci siano davvero barriere alla partecipazione a questa festa. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la nona edizione di Libri Come Felicità, il tema di quest'anno, dal 15 al 18 marzo all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Un ringraziamento, un saluto e un in bocca al lupo a Marino Sinibaldi, che è uno dei curatori. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, a presto, Marino. Ciao, ciao, grazie, Federico, ciao.